solitudine, solitudine, solo nel deserto, nel deserto, solo la mia mente tra delirio e gioia, delirio e gioia, solo nel silenzio, penso a te Signore, a te Signore.